La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato allo storico dibattito televisivo tra l'allora vicepresidente repubblicano Richard Nixon e il senatore democratico John Fitzgerald Kennedy, entrambi candidati alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Ospite ai nostri microfoni, Furio Colombo, ex corrispondente dagli Stati Uniti per Repubblica e La Stampa e docente di giornalismo alla Columbia University di New York. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Nella società dell'immagine, la televisione, come sappiamo, ha assunto da tempo un ruolo primario nel confronto politico quotidiano. Ormai non solo da noi abbondano i contenitori politici e i talk show. In campagna elettorale, poi, di fatto, la competizione si svolge direttamente nei salotti televisivi. Molti storici concordano nell'indicare un anno, il 1960, e un paese, gli Stati Uniti, come il primo concreto esempio nel dopoguerra di un confronto politico giocatosi per buona parte in uno studio televisivo. È lo storico faccia a faccia alla CBS di Chicago tra il 43enne senatore John Fitzgerald Kennedy, candidato dei democratici alle elezioni presidenziali, e il 47enne vicepresidente in carica Richard Nixon, candidato repubblicano. È il 26 settembre del 1960. L'evento viene seguito in diretta TV e radio da 70 milioni di telespettatori. Un'ora di confronto serrato. Il moderatore è Howard Smith. Le domande vengono rivolte da quattro giornalisti televisivi. La performance di Kennedy, più diretto e sicuro di sé, gli procurò un vantaggio decisivo per la vittoria finale. Kennedy aveva trascorso buona parte della giornata preparando le risposte alle possibili domande, disteso sul letto della sua camera all'Ambassador East Hotel, con in mano le schede informative compilate dai collaboratori. Alla fine decise di sostituire la dichiarazione di apertura preparata dal suo staff con una propria versione personale che dettò a una segretaria. Kennedy si portò subito in vantaggio rivolgendo il suo intervento d'apertura direttamente al popolo americano, così come fece nella dichiarazione conclusiva. Nixon, invece, utilizzò sia l'introduzione sia il discorso finale per evidenziare i punti sui quali era in contrasto con l'avversario. Kennedy si mostrò come un leader deciso ad affrontare i problemi del paese. Nixon offrì al contrario l'immagine di un candidato alla presidenza che cercava solo di prevalere sul rivale. Usò un linguaggio controllato, ma a differenza di Kennedy, non riuscì a presentarsi agli americani come uno statista. Ed ecco come Kennedy rispose ad una domanda sulla sua vera o presunta inesperienza politica. Il vicepresidente e io siamo arrivati al Congresso insieme nel 1946, entrambi alla Commissione Lavoro. Sono stato lì per 14 anni, lo stesso periodo di tempo suo. La nostra esperienza al governo è quindi comparabile. Io credo che la questione sia qual è il programma che noi sosteniamo, quali sono gli obiettivi politici a cui puntiamo. Io provengo dal Partito Democratico che in questo secolo ha prodotto Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt e Harry Truman e che ha supportato e sostenuto i programmi di cui discutiamo questa sera. Mr. Nixon proviene dal Partito Repubblicano, è da questo stesso nominato. E in questi ultimi 25 anni la leadership repubblicana si è opposta agli aiuti federali per l'istruzione, l'assistenza sanitaria agli anziani, lo sviluppo della Valle del Tennessee e delle nostre risorse naturali. Io credo che Mr. Nixon sia effettivamente leader del suo partito. Spero riconosca lo stesso a me. Ma la questione che abbiamo di fronte è quale prospettiva e quale partito vogliamo che guidi gli Stati Uniti d'America. Ed ora ecco Nixon che espone una parte del suo programma. Il programma dei democratici fa esplicito riferimento alla riduzione del debito pubblico. Io penso che sarebbe opportuno farlo, ma ritengo altresì che sia impossibile. In particolare per quel che riguarda la proposta che il senatore Kennedy ha appena avanzato, cioè di ridurre il debito o, in alternativa, di ridurre le tasse. Io penso che sarebbe necessario ridurre le tasse. Il senatore Kennedy ha appena avanzato la proposta di finanziare le cure mediche per gli anziani attraverso il sistema sanitario pubblico. Questo comporterebbe però un aumento del prelievo fiscale a carico di tutti coloro che sostengono il sistema di sicurezza sociale. In conclusione, riferendomi alle proposte che il senatore Kennedy ha appena illustrato, vorrei dire che esse conducono a questo risultato, o a aumentare le tasse, o dissestare i conti pubblici. Abbiamo in linea Furio Colombo, giornalista e scrittore, che all'epoca di questi fatti viveva a New York e scriveva per Il Mondo e L'Espresso, e racconta nel libro L'America di Kennedy, Dalai editore, un'avventura esaltante, che è la brutale soluzione di Dallas. Come sappiamo, Kennedy poi sarà ucciso nel novembre del 63, ha subito reso mitica nella memoria e nel confronto. Grazie Furio Colombo per aver accettato il nostro invito. Grazie per avermelo chiesto. Allora, un tuo ricordo personale su quella serata, e se effettivamente concordi sul fatto che quel confronto televisivo possa essere considerato un po' come l'antesignano dei confronti politici a cui noi ormai siamo abituati, anche se probabilmente avvenne tutto forse con un altro stile. Vorrei permettere un piccolo chiarimento. Il mio libro L'America di Kennedy, ristampato, ripubblicato benevolmente da Dalai, Valdini Cattoldi Dalai, 2 anni fa, è del 1964. Dell'inizio del 1964. In altre parole, è un libro scritto in diretta al tempo in cui queste cose accadevano, mentre queste cose accadevano. In parte le pubblicavo sul Mondo e più tardi sull'Espresso, come è stato ricordato, ma soprattutto le stavo vivendo mentre le stavo scrivendo. Io risponderei in un punto A e un punto B. Sì. Il punto A è che sì, certo, io come tutti coloro che la sera hanno assistito al dibattito, ho avuto l'impressione di entrare in un'epoca nuova. Avevo già lavorato in televisione, ero già stato giornalista nel primo telegiornale italiano a Roma, avevo già un'esperienza di quel mondo, avevo già accumulato l'impressione di aver toccato il futuro, e quindi più che mai ho condiviso l'idea che quello che stava accadendo era veramente il nuovo. Ne sono tuttora convinto, perché effettivamente senza la possibilità di moltiplicare per milioni di rapporti umani che stavano guardando in quel momento la televisione, credo si sia calcolato 30 milioni, senza la possibilità di moltiplicare per un numero così alto la straordinaria performance di John Kennedy, di John Fitzgerald Kennedy, a confronto con Nixon, la pura e semplice lettura di quelle parole avrebbe lasciato ben altra impressione. La performance in un teatro sarebbe stata utilissima per coloro che erano presenti, che fossero stati presenti nel teatro, ma di scarsa utilità per tutti gli altri, l'immensa maggioranza dei cittadini che non avrebbero potuto beneficiare di quel dibattito. Dunque, da questo punto di vista non c'è dubbio, è nata un'epoca nuova, siamo entrati in un nuovo momento della storia nel quale la comunicazione ha un'importanza grande, si è detto da allora, e qui viene il mio punto B, grande sì, come gli argomenti che vengono presentati, anzi più grande, perché dipende dalla qualità della presentazione. Il punto B me lo ha suggerito Ted Sorensen, l'autore di gran parte di ciò che Kennedy ha detto quella sera, sì, perché Ted Sorensen, tuttora caro amico e amico per tutta la vita, era già amico personale a quel tempo. Ted Sorensen è l'uomo che ha scritto le pagine più belle e le frasi più importanti e incisive non solo nel debutto, ma in tutte le apparizioni, in tutte le occasioni di discorso e di apparizione in pubblico di John Kennedy. Ted Sorensen ha riflettuto esattamente sul tema di questa trasmissione sul New York Times il 2 ottobre scorso, e si è posto la domanda che è quella stessa che ci stiamo facendo noi questa sera: ma quella trasmissione ha veramente definito il ruolo della trasmissione, o non ci ha detto che quello che conta allora come adesso è ciò che fai proporre, è l'idea che hai della politica, è la capacità di agganciare una vera opinione pubblica con veri problemi e vere questioni, invece di menare il can per l'aia con luoghi comuni e con la ripetizione di cose sempre dette, magari anche in stretto politichese. Certo, esiste un politichese italiano molto più stretto e inaccessibile del politichese americano, ma nell'ascoltare Richard Nixon un momento fa non potevo non notare, sia pure ascoltando l'introduzione, perfette traduzioni tra l'altro, che il linguaggio di Nixon è diversissimo dal linguaggio di Kennedy. Il linguaggio di Kennedy è limpido, diretto, conversativo ed esattamente quello che qualunque persona che si spiega bene userebbe. Il linguaggio di Nixon è chiuso, introverso, scattano delle particelle meccaniche che sono tipiche di tanti, sono spezzoni di tanti discorsi politici fatti nelle commissioni, fatti negli organi competenti, fatti all'interno dei partiti, fatti da politici per politici. Allora concludeva Sorensen, ed è qui il punto B da cui vorrei trarre un pensiero utile per chi ci ascolta. Dice Sorensen: badate che con tutta la qualità e la buona performance, la grande vittoria di Kennedy è stata in quello che ha detto. Certo. E tuttora il problema della politica, ha scritto Sorensen, che è vecchio e cieco ma ha mantenuto la sua incredibile saggezza, dipende da quello che sai dire e dal modo in cui ti sai agganciare, in modo che chi ti ascolta senti che stai, quell'oratore sta parlando di noi, non di sé a confronto con, ma di un noi che comprende sia il leader che l'opinione pubblica. Ecco il problema con cui l'Italia si confronta in questo momento. Grazie tantissime, grazie ancora per il tuo intervento. Grazie a te e buon lavoro.